Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Me ne vado in Alaska. Alaska, Alaska? O la città di Alaska, perché ce li hanno i supermercati ad Alaska. La città di Alaska, non l'Alaska, la città di Alaska, ce li hanno i supermercati. No, amico. Alaska, Alaska. Dritto, sparato lassù nel mezzo... nel bel mezzo, cazzo, solo... solo io e basta. Cioè, senza un cazzo di orologio, niente mappa, niente taccetta, niente, capisci? Stare semplicemente là in mezzo, semplicemente là in mezzo, capisci? Le montagne, i fiumi, il cielo, la caccia, là in mezzo, capisci? Nella natura. Sì. Nella natura. Solo natura. Avete appena sentito una clip tratta da Into the Wild, un film del 2007 scritto e diretto da Sean Penn, basato sul libro di John Krakauer sulle terre estreme. In questo film viene raccontata la storia di Christopher McCandless, un giovane della Virginia che lascia la famiglia e va a vivere da solo in Alaska, scegliendo di utilizzare solo mezzi naturali e di stare solo nella natura. Addirittura c'è la famosa scena in cui brucia le banconote. E oggi parliamo di natura, di prodotti naturali, anzi della fabbrica di cosmetici e detersivi totalmente naturali. Questa fabbrica è la Vit di Poirino e oggi il nostro ospite, l'amministratore delegato e maggiore azionista Aristide Artusio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. La storia ci interessa perché ci piace raccontare storie di piccole aziende che sono protagoniste di belle avventure che nessuno ci conosce, ma anche perché ci permette di affrontare il discorso di che cosa è naturale e di che cosa non lo è, di che cosa vuol dire produzione industriale di prodotti naturali, di come l'industria si può conciliare con la natura e di definire una certa serie di temi che sono molto importanti in questa trasmissione e per i nostri affezionati ascoltatori di Fabbrica 2.4. Anche perché nelle scorse puntate, quando per esempio ho parlato della fabbrica dell'aceto e ho detto che sul concetto di naturale c'è un po' troppo di retorica, sono arrivate delle email di ascoltatori che poi leggerò e che hanno un po' aperto un dibattito. Prima di parlare della WIT, che a Poirino fa 14 milioni di euro di fatturato, 62% cosmetici, 25% integratori, 13% detergenti, io volevo chiedere a Aristide Artusio: ma che cosa vuol dire che un prodotto è totalmente naturale? Ci può fare un esempio di un vostro prodotto e spiegare come viene fatto e perché voi lo definite tutto naturale? Vi faccio l'esempio di, che ne so, dell'olio di mandorle, dell'olio d'argan. L'olio d'argan è un prodotto. Cos'è l'argan? L'argan è un olio che viene prodotto, la mandorla che viene raccolta è su una pianta completamente naturale nel Marocco, nel deserto del Marocco. È una pianta che ha delle radici lunghissime per prendersi l'acqua, perché lì i terreni sono molto caldi. Questa mandorla viene spremuta e ne esce fuori un olio, e da questo olio si vende anche puro come olio, e poi anche su prodotti. Ma che cosa serve? Serve per la bellezza, serve per la pelle, serve per i capelli, può servire per fare degli shampoo per la pulizia dei capelli. Serve per la pulizia dei capelli, che poi diventano più lucenti? Diventano più lucenti, sì, diventano più lucenti. Ma quindi non è che lo producete voi, lo acquistate? No, noi lo acquistiamo e poi lo lavoriamo. Noi di prodotti che produciamo, che coltiviamo, non ne abbiamo. Voi acquistate dei semi lavorati dai coltivatori e poi fate la lavorazione finale, che così viene trasformata in prodotto da utilizzare? Sì, che vengono utilizzati o per detersivi, o prodotti per la casa, oppure prodotti per la persona. Qual è il vantaggio di utilizzare prodotti totalmente naturali o da voi definiti come totalmente naturali? Ma ad esempio esempio per l'inquinamento, lei pensi che chi inquina più di tutti è la donna di casa. Voi pensate un palazzo con 200 appartamenti, tutti gli scarichi delle lavatrici, delle lavastoviglie, di cosa hanno adoperato per pulire i pavimenti dentro gli scarichi, quanto inquinano? Ma scusi, forse se inquinano più di un'azienda. Io mi do sui miei pochissimi capelli l'olio di argan e poi mi lavo i capelli, vuol dire che l'acqua che ne esce, che sì, anziché quella con lo shampoo, non inquina. Sì, esatto. Oppure il prodotto che lei adopera per la lavastoviglie o per lavare la biancheria o il bucato, quando, oppure per pulire i pavimenti. Noi ad esempio abbiamo un prodotto che lei pulisce i pavimenti, quando ha finito l'acqua sporca la adopera a innaffiare le piante. Ma io poi, se poi il pavimento è tutto bello zozzo, con la zozzeria del pavimento e la metto nelle piante. Esatto, esatto. È un'alga. E quanto costano rispetto ai prodotti chimici che si possono comprare al supermercato? Costano più o meno uguale ai prodotti, sono molto più concentrati, se ne adoperano molto molto meno. Quindi, quindi uno praticamente si compra il flacone e poi lo deve in casa sua diluire nell'acqua. A volte sì, ci sono dei prodotti anche fatti così da diluire nell'acqua. Ad esempio noi abbiamo uno sgrassatore che lei da un litro ne fa 15 litri. Ne mette una tacchettina nel dosatore anche per evitare più trasporto, più plastica, eccetera. Cioè l'ecologia noi cerchiamo di farla a 360 gradi. Funzionano molto bene, funzionano come gli altri. Calcolo che adesso questa è una moda. Noi sono dal 1970, perciò sono quasi 50 anni che facciamo questo tipo di discorso a porta a porta, perché poi noi la nostra vendita è una vendita diretta, noi abbiamo 5.000 donne che fanno le dimostratrici. Però la mia domanda è, posto che io credo nella buona fede sua, ma chi certifica che una cosa è totalmente naturale? Beh, questo l'etichetta. Noi ad esempio in etichetta i nostri prodotti hanno, oltre ad avere l'etichetta di legge, abbiamo un'etichetta che la chiamiamo garanzia qualità vita, ed è un'etichetta che è quali quantitativa. Ecco, però scusi, lei sull'etichetta potrebbe, faccio l'avvocato del diavolo, lei sull'etichetta potrebbe raccontare le balle che vuole. Eh no, perché se un'etichetta, lei mi prende un qualsiasi prodotto, lo fa analizzare e poi non c'è esattamente quello che c'è scritto sull'etichetta, è frode in commercio. E quindi non vi conviene, insomma. Assolutamente, è penale addirittura. Cioè. Allora, mi scusi se interrompo il dialogo con lei, però volevo leggere alcune email. In particolar modo ci ha scritto un ascoltatore, tale Franco Ziliani, che si è indignato per quello che io ho detto durante la trasmissione sulla fabbrica dell'aceto. Scrive Ziliani: egregio signor Astone, sto ascoltando la puntata di oggi del suo programma, è la prima volta che l'ascolto e sto apprezzando il suo eccellente modo di presentare l'azienda Ponti, e qui sono le premesse gentili per poi arrivare alla stoccata. Una domanda: per il futuro può vedere di celebrare le magnifiche sorti e progressivi dell'industria alimentare italiana senza attaccare superficialmente, come ha fatto oggi, i prodotti naturali? Capisco che il mondo del naturale non investe pubblicitariamente parlando sul quotidiano della Confindustria e sulla sua radio, ma perché esaltare a prioristicamente l'industria alimentare? Infine le chiedo, ma lei, tra un ottimo salame prodotto in maniera artigianale ed un salame industriale, quale preferisce? Se fosse coerente dovrebbe dire il secondo. Grazie per l'attenzione, cordiali saluti. Poi questo Ziliani sul suo blog continua a scrivere delle robe un po' paranoiche sugli interessi che ci muoverebbero e altre cose. Guardi, le posso dire, io nella trasmissione forse mi sono spiegato un po' male, perché non è che si vuole attaccare l'industria del naturale, però si è creato un equivoco dovuto all'eccesso di retorico, per cui sembra che ciò che è naturale fa bene e ciò che è industriale fa male o addirittura fa male alla salute. Tutto questo non è vero, anzi i prodotti industriali hanno una sorta di una serie di certificazioni, di prove e di garanzie che proprio male alla salute in quanto industriali non fanno. In questi anni c'è una retorica imperante sul ritorno alla natura e sulla natura contrapposta all'industria che sarebbe cattiva, una retorica anti-industriale che si alimenta anche di alcuni miti come il mito dell'agricoltura, il mito della cucina, che sta facendo malissimo e che non è veritiera, ma nessuno vuole attaccare il salame prodotto in maniera artigianale. Posso dire che il salame prodotto in maniera artigianale è più buono, ma che fa più bene alla salute, questo è assolutamente tutto da dimostrare. Anzi, secondo me non è vero. Con tutto ciò, certo che il salame del contadino ci fa più piacere mangiarlo, anche se ci sono ottimi salami industriali. Noi non è che esaltiamo l'industria perché abbiamo dietro chissà quali interessi. La verità è che l'industria tiene in piedi questo paese. Questo paese non può funzionare solo grazie alla vendita di due vestiti e di quattro fette di salame. Se noi guardiamo i numeri, la maggioranza, la maggiore quota del nostro PIL viene generata dall'industria meccanica, e questo è un fatto. E oltretutto l'industria agricola, l'industria alberghiera, l'industria del turismo sicuramente sono importanti e vanno potenziate e valorizzate, ma hanno un contenuto di salari, di scienza e di tecnologia che è inferiore rispetto a quello del manifatturiero. Comunque ci avviciniamo alla pausa per la pubblicità e gli avvisi sul traffico. Lei che ne pensa, Artusio, di tutto quanto ho detto io in risposta all'ascoltatore che ha scritto? Ha perfettamente ragione, perché il naturale è di moda, andando di moda succede di tutto. L'industria è molto controllata, noi industria siamo controllati dal NAS, siamo controllati dall'USL, abbiamo i certificatori. L'industria non è detto che fa solo dei prodotti per il business. L'industria fa prodotti per il business, ma fa ottimi prodotti. Business, certo, perché c'è nessuno che lavora gratis, ma anche chi fa il salame fatto in casa lo fa per il business, soltanto ma comunque io devo dire una cosa prima di chiudere. A noi l'industria piace da impazzire. Viva le fabbriche, viva le macchine, viva i robot. E adesso avvisi sul traffico e pubblicità. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Fabbrica 2.4. Si avvertiva chiaramente la presenza di una forza ostile all'uomo. Era un luogo di superstizioni e riti pagani, fatto per essere abitato da uomini più vicini alle pietre e agli animali selvaggi che a noi. Rieccoci in linea, vi ho fatto sentire una clip ancora tratta da Into the Wild, perché oggi parliamo di natura e dell'industria che fa leva sui prodotti naturali. Il protagonista di questa puntata è il gruppo WIT, che cavalca una moda del momento con cosmetici, integratori e detergenti tutti naturali, e con i marchi WIT, Erboristeria Magentina, Alba Vegan Makeup, Alba Vegan Beauty e Yao, che sarebbero, poi ne parliamo, i prodotti naturali per la cura del cane, del gatto e del cavallo. Ma facciamo un po' di discorsi più di business con Aristide Artusio. Voi avete raggiunto quota 14 milioni di euro di ricavi. Che tasso di crescita vi aspettate per il prossimo futuro? Noi stiamo crescendo del 10-15% all'anno. Adesso le previsioni dei prossimi anni sono, noi abbiamo dei budget dal 15 al 20% anche per i prossimi 4 anni di crescita. in questo momento noi vendiamo e commercializziamo solo in Italia, incominciamo adesso a espandersi un po' all'estero, anche se il mercato in Italia è ancora molto grande, c'è ancora molto spazio. Certamente, perché in questo momento lo spirito del tempo, oltre che verso l'industria 4.0, che confesso a me piace molto di più, perché io poi mi annoio profondamente a parlare di queste cose, ma ne parlo perché gli ascoltatori interessano, ecco, lo spirito del tempo va verso il bio, la natura e quant'altro, è anche un po' una moda, è anche giustificato da ragioni etiche, e comunque le aziende che cavalcano questo possono crescere enormemente. Infatti io penso che lo spazio di crescita per un'azienda come la vostra sia enorme, però per crescere così bisogna anche finanziarlo, nel senso che se voi volete aumentare le vostre vendite in Italia e andare anche in altri paesi extra Italia, dovete aumentare la capacità produttiva e la capacità commerciale. Per fare questo ci vogliono dei soldi, quindi come pensate di fare? Ve la cavate con autofinanziamento e debiti bancari, oppure state pensando al private equity, alla borsa, all'emissione di mini bond o ad altre operazioni più strutturate? No, in questo momento con i nostri sforzi con le banche, che le banche sono molto attive e abbiamo dei finanziamenti anche, diciamo, agevolati, tra virgolette, con dei tassi che in questo momento sono molto alla portata. Noi di fatti stiamo raddoppiando addirittura lo stabilimento, abbiamo iniziato i lavori circa 10 giorni fa e per fine anno abbiamo... Il vostro stabilimento è a Poirino? Il nostro stabilimento è a Poirino, è di circa, in questo momento è di circa 5.000 metri e da fine anno sarà di 10.000 metri. Perché lo... Ma quanti operai avete? Noi abbiamo 45 dipendenti interni che lavorano qua nell'azienda. E poi abbiamo le rete vendite che sono formate da 5.000 donne per la Vititalia, di 30 venditori per la rete vendita Magentina, che è distribuita in farmacia e in erboristeria, e poi una decina di persone per Armonia di Bellezza, che è un prodotto venduto nei centri estetici e centri di benessere. Senta, ma che cosa vuol dire Gruppo WIT? Questo acronimo che cosa significa? Ma il gruppo WIT è nato dal... il fondatore si chiamava Vittorio D'Aglio. Quindi facevate i cosmetici con l'aglio? Magari sarebbe una scoperta, l'aglio ha delle proprietà. Può darsi. Io, poi questa azienda era una piccolissima azienda e 15 anni fa... Io non sono figlio di un imprenditore, ma mio padre faceva il calzolaio, io sono nato venditore, ho poi fatto il direttore commerciale in diverse aziende, sia nel settore farmaceutico e nell'abbigliamento, poi ho voluto a tutti i costi mettermi in proprio e c'era questa piccolissima azienda che ho acquistato, comprato. E assieme alla dottoressa Giussani, che era il nostro direttore tecnico, e l'abbiamo sviluppata. In 15 anni abbiamo costruito lo stabilimento, abbiamo poi comprato l'erboristeria Magentina, che è un marchio che arrivava da Magenta, nella zona di Milano, nel settore farmaceutico. L'abbiamo conglobata, abbiamo fatto un unico gruppo dove la produzione è tutta Vititalia e la distribuzione viene nei diversi marchi. Ecco, nelle scorse puntate abbiamo lanciato un dibattito su temi diversi da questi, che era: cari ascoltatori, che cosa pensate dell'Industria 4.0? È veramente un fenomeno importante? È una montatura? Cambierà le vostre vite? Che cosa cavolo è? E dateci anche dei pareri critici scrivendo a fabbrica@radio24.it. E credo già domani leggerò le prime mail, però io oggi volevo lanciare un nuovo dibattito. Che cosa ne pensate della moda del naturale? È veramente un progresso per l'ecologia? È veramente un progresso per il nostro modo di vivere? O è solo una moda cavalcata dal business ai quali gli ingenui abboccano? Scrivete anche questo a fabbrica@radio24.it. Senta, ma ci dica meglio come funziona uno stabilimento industriale per la fabbricazione di prodotti naturali? Funziona che prima di tutto deve avere dei... noi abbiamo due laboratori, uno ricerca e sviluppo e l'altro controllo qualità, che è la cosa più importante. Avere dei formulatori, che noi abbiamo la dottoressa Giussani, che sia molto acculturata e molto brava sui prodotti naturali, conoscendoli molto bene, facendo queste formule, testandole, che funziona, perché la cosa più importante del prodotto naturale è che funzioni bene tanto quanto un prodotto chimico. Avere la passione, perché poi poi in pratica voi vi arriva il prodotto grezzo, per esempio l'olio di argan, sì. E voi che fate con questo grezzo? Che cos'è questo grezzo che vi arriva dal Marocco e come lo trasformate? Lo si trasforma, lo si lavora, allora una parte si vende anche puro e viene confezionato nel flacone, nei suoi flaconi, viene poi messo nei cartoni e venduto. Altro si viene preso e viene lavorato. Come messo viene lavorato? Viene lavorato come l'industria cosmetica, cioè con dei grossi turbo, viene sottovuoto, vengono lavorati, vengono poi confezionati, vengono lavorati o in crema o in liquido. Quindi voi siete specializzati nei prodotti naturali, ma siete estremamente automatizzati e robotizzati, altrimenti... Assolutamente sì. Sì. E quindi, come vedete, qui tornano i nostri amici robot. Viva i robot! Questo sarà il nostro slogan. Vogliamo robot dappertutto. Noi investiamo molto in tecnologie, in macchine e in catene per poter produrre, assolutamente sì. Senta, io vedo qua un po' i vostri prodotti. È interessante anche questa linea IAOA per prodotti naturali per il cane, il cavallo e il gatto, per esempio. Spray assorbiodori al paciulo per cucce, per cani e animali domestici. Succo di aloe depurativo immunostimolante per il cane. Perché il cane deve bersi il succo di aloe, scusi? Allora, il marchio è IAIAO, che arriva dalla canzone della vecchia fattoria, no? E noi l'abbiamo chiamata nella nuova fattoria IAIAO. Abbiamo fatto prodotti per cane, gatto e cavallo, dalla passione che noi abbiamo. Io ho un cane, mia moglie ha un cane, due cavalli, la dottoressa Giussani ha dei gatti. Ad esempio l'aloe per il cane o per il gatto o per il cavallo funziona molto molto bene, soprattutto per il pelo, gli lascia un pelo che è fantastico, è un energetico e è anche un curativo questo. Poi c'è lo shampoo spray, è una cosa utile, lo shampoo spray senza risciacquo per il cane, sì. Ideale per la toilettatura in autunno e in inverno, cioè quando arriva in casa sporco lurido che si è ravanato nel fango e nella pioggia, uno gli dà questo shampoo e lo pulisce senza dover... Lo pulisce e lo lava senza dover adoperare l'acqua. Senza il travaglio di metterlo nella vasca e tutto quanto. Esatto. Però scusi, il kit regalo per il cane, che nel kit regalo, pacchetto regale, c'è l'acqua aromatica e la lozione detergente. Gente per le orecchie? Sì, funziona. Abbiamo fatto anche delle scatole regalo, perché c'è magari qualcuno che ha l'amico con il cane o il gatto e se va a trovarlo gli porta la scatola regalo e c'è ad esempio il prodotto per pulirgli le orecchie al cane o al gatto, o per l'acqua aromatica per pulirgli gli occhi al nostro animale. Ecco, concludo ribadendo agli ascoltatori di scriverci fabbrica@radio24.it. Potete scriverci sia in merito a questo dibattito che vogliamo aprire su che cosa è naturale e che cosa no, e sia in merito all'Industry 4.0. Diteci che cosa ne pensate. Intanto saluto il dottor Artusio, arrivederci. Grazie, arrivederci anche a lei. Auguro buon sabato agli ascoltatori, ci risentiamo domani alle 13:10 per una nuova imperdibile puntata di Fabbrica 2.4. Viva i robot!